La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:07 e 33 secondi. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre dagli studi di Milano per l'ascolto in diretto in podcast della versione di Oscar di oggi pomeriggio e vi diciamo subito che oggi abbiamo un ospite che per me è un ospite straordinario e l'ospite straordinario si chiama Mario Secchi che il pubblico di Radio 24 conosce per averlo sentito per qualche anno la mattina insieme a Minoli, di cui sono molto amico, è un grande estimatore, ve lo dico subito prima di annunciarvi di cosa parliamo con lui per in maniera che possiate decidere se telefonarci all'800240024. Vi faccio subito un invito, perché Mario Secchi sta in questi mesi sta producendo una vera e propria novità nell'informazione giornalistica e si chiama List, è una specie di non è quella che si chiama la newsletter, è una cosa che sa un po' di antico, è un esperimento nuovo di analisi e commento delle maggiori notizie, una selezione delle più importanti notizie commentate però con analisi molto approfondite italiane e internazionali, che è diventato un punto obbligatorio della giornata per indirizzare l'evoluzione poi dei fatti, e che in tutte le testate giornalistiche ci si strappa di mano, e io vi dico vale la pena che vi iscriviate a List, L-I-S-T, come se fosse lista, perché ne guadagnerete molto rispetto a quello che trovate sui giornali della mattina, che come è noto è roba vecchia del giorno prima. E lui è veramente straordinario. Allora, con lui parleremo di due crisi, soprattutto di una, quella che continua nei suoi sviluppi, vedremo quali, perché stamattina ci sono stati tre sviluppi, uno più importante dell'altro, sulla vicenda ovviamente Banca d'Italia, e gli sviluppi ci sono perché stamattina ha parlato Renzi e ha pronunciato parole pesanti. Poi c'è stata una nota della Presidenza del Consiglio e anch'essa è una nota pesante. Poi ha parlato anche Berlusconi e Berlusconi ha usato due frasi che vedremo, sono frasi da pesare anch'esse, meno esplicite però dense di significato e quindi su questo faremo qualche considerazione, perché siamo ben lungi dal aver probabilmente capito che cosa sta succedendo e dal poter esprimere ragionevoli previsioni su cosa avverrà, perché sapete che il governo intanto ha preso tempo, però si vanno precisando meglio le forze in campo, Renzi da una parte, Gentiloni dall'altra, c'è anche il Quirinale come è noto sullo sfondo e lo stesso Berlusconi, e sono posizioni che nel tempo ci stanno dando elementi nuovi rispetto alla semplice risoluzione, a quello che è stato scritto sui giornali. Però faremo anche una riflessione sugli sviluppi molto importanti che sono in corso nel frattempo anche nella crisi tra Spagna e Catalogna, perché vedrete che anche lì stamattina c'è stato uno sviluppo epistolare, tutt'altra classe se mi permettete rispetto a quello che avviene in Italia, tutt'altra classe, sto parlando di stile non di contenuti, perché c'è stato uno scambio di note scritte tra Puigdemont e Rajoy, e anche lì a questo punto forse siamo più avanzati nel capire che cosa avverrà, perché sabato, se continua così, c'è un Consiglio dei Ministri che esaminerà il dispositivo da assumere da parte della Spagna nei confronti della Catalogna e poi da sottoporre al voto del Senato. Ma insomma si va a uno showdown pesante, o almeno a quest'ora di questo pomeriggio mi sembra di poter dire che sarà così. Mario, sei collegato con noi? Ciao Oscar, allora, buonasera a tutti, pomeriggio. Prima di andare, fammi ti richiedere anche a te, come ti è venuta questa cosa di List? Abbonatevi a List, per il momento è ancora free, tra poco non lo sarà più, ma ne vale la pena, ma come ti è venuta? Mi è venuta perché 2 anni fa io vedevo che i giornali avessero un modello narrativo andato, non funziona più, io dico sempre hanno le notizie del giorno prima, specialmente i giornali generalisti. Allora, per gli economici si può fare anche una considerazione diversa, diciamo. Però diciamo, la stampa generalista ha un problema, non solo è in costante ritardo, ma è anche in caduta libera per quanto riguarda la qualità delle cose fatte. E io ero fortemente scontento personalmente, non di quello che fanno gli altri, ognuno fa quello che vuole ovviamente. E ho cominciato a sperimentare un modello che avevo importato dagli Stati Uniti, era Quartz, che faceva una newsletter molto bella, ma secondo me molto troppo sintetica. E io ho cominciato a innestare un modello invece narrativo dove l'analisi ha una forte preponderanza, ovviamente, dove c'è sempre, anche i fatti italiani sono incastonati in uno scenario globale, perché tutto me lo insegni tu. È congiunto dei vari puntini e questa cosa l'ho fatta sul foglio per un po', è diventato una delle cose più lette del foglio, un fenomeno vero e proprio, e a un certo punto ho deciso di farlo diventare una mia impresa, quindi a maggio ho smesso di scriverlo sul foglio, ho fatto la mia piccola Newco, una piccola Ah, piccola società, un'azienda, però, una società dove c'è esatto. Maite Carpio, che è spagnola, bravissima, è un socio eccezionale, con visione internazionale, siamo partiti e devo Allora, dire è partita bene. Poi vediamo. iscrivetevi a lista. È Allora, facile, l'indirizzo è newslist.it. newslist.it. Allora, Mario, noi abbiamo avuto oggi tre pietre rispetto a quello che sapevamo ieri Enorme. su questa faccenda, perché ha parlato Renzi stamattina con la sua intervista, poi ha parlato Palazzo Chigi e ha anche parlato Berlusconi. Vediamo queste tre cose tu come le vedi. Perché Renzi dice: ma non raccontatemi storie. Gentiloni sapeva, tu, anzi, non è che sapeva, era d'accordo testualmente. Sì, notevole, devo dire, io sono saltato sulla sedia. Come tu sai, noi purtroppo è ancora buio e leggiamo tutto, no? Certo. All'alba abbiamo letto tutto, io ho visto questa cosa e ho detto, ma che cosa sta succedendo? Perché lui dice, il governo testuale, il governo, ce l'ho davanti, il governo non era semplicemente informato, era d'accordo, D'accordo. d'accordo. L'esecutivo è composto da persone serie, dunque è evidente che il governo sapesse che fosse anche d'accordo, lo ribadisce. Ora, è un'intervista e non sono parole dal semplice, cioè è meditata questa cosa, è un'intervista che probabilmente lui ha rivisto e comunque sapeva quello che diceva. Tecnicamente i vecchi cronisti come noi da transatlantico questo lo chiamano siluro argentino, proprio. È questa cosa qua, evidentemente. Ma questa cosa è di più, perché a questo punto ci devono dare due o tre spiegazioni, ma non a noi, noi non contiamo niente, al paese, ai risparmiatori, forse anche al Parlamento, direi, perché scusa, ma noi abbiamo saputo che, e io, almeno io personalmente, come me, tantissimi altri colleghi fanno bene il loro lavoro, da almeno 4 o 5 fonti Oscar iperqualificate, quelle che io chiamo tripla A, Tripla. tutte coincidenti, cioè sul colpo di mano di Renzi, che non aveva informato quasi nessuno e lo sapevano in pochissimi, addirittura una fonte mi ha detto fino a 2 ore prima non c'era nessuna mozione da presentare, no? Quindi chiaro, ed è arrivata dopo. Sono anche di altri conciliaboli addirittura tra un ministro importante del PD e un fortissimo alto rappresentante non ministro del PD che gli dice tira fuori la mozione se ce l'hai. Quindi insomma potremmo aggiungere molti particolari, ma dobbiamo tenere così Però le dobbiamo fonti stare. dicono no, il Le fonti governo non dicono era questo. informato. Il governo non è informato, tant'è che noi abbiamo visto, no? Il ministro dell'economia dire ma ditemi che non è vero. Allora, se è così, e io ne cito solo una di queste. Allora, noi siamo in presenza di due versioni discordanti su un fatto istituzionale gravissimo, gravissimo nel senso importante, e sul quale, secondo me, il Presidente del Consiglio deve andare in Parlamento a dire che cosa sta succedendo, o il Ministro dell'Economia, e darci una versione coincidente. Perché non è che stia parlando l'ultimo, sta parlando il segretario, ex presidente del Consiglio, ma il segretario del partito di maggioranza, insomma, Sta parlando il segretario del partito che esprime il Presidente del Consiglio. quindi. L'altro, e quindi noi abbiamo due versioni discordanti su un fatto istituzionale grave che coinvolge tutte le più alte cariche dello Stato, quindi il Quirinale compreso, e non sappiamo che cosa sta succedendo. A L'altro quel aspetto punto, politico, Oscar, sì. è la questione della divisione netta dell'ala ministeriale del PD da quella renziana. Perché questo è un altro fatto politico gigantesco. Cioè il PD è come la Jugoslavia di Tito. Si sta balcanizzando. E questo, allora, delle sorti del PD potremmo anche non interessarci, ma questo ha dei riflessi sulla vicenda Banca Italia. Certo, Cioè, aspetta, io ti fermo su questo però, perché su questo noi dobbiamo pensare, proprio perché pesa le parole, ha deciso di farlo sapendo che certo. sarebbe stato obiettabile attraverso la forma della risoluzione con tutta l'energia che aveva Renzi, e però questo effetto che hai appena citato, cioè la divisione anche dell'ala ministeriale del PD, non stiamo più sì. parlando della divisione tra chi esce dal PD a sinistra, no, Bersani, è un'altra cosa. Allora, questa cosa, ci possiamo immaginare che Renzi anche questa voglia? Secondo me Renzi è un re del rationem con se stesso, prima di tutto. Cioè, la dimensione psicologica in politica è molto importante. Dobbiamo sempre dare una prospettiva a tutto. Renzi si troverà il 22 ottobre, adesso quindi tra pochi giorni, a affrontare la questione del referendum in Lombardia e Veneto, che comunque vada sarà una specie di piccola spinta ulteriore al centrodestra. Poi nel giro di pochi giorni avrà lo tsunami del voto in Sicilia. In Sicilia. E allora noi dobbiamo guardare, le mosse di un politico vanno viste in questa direzione. Le mosse, la Sicilia sarà uno spartiacque, perché se verrà confermato quello che tutti per il momento vedono, certo. che per il momento vediamo, poi siamo pronti a cambiare idea, voglio dire, il taccuino è fatto per scrivere le cose nuove, non quelle vecchie. Allora va bene, ma se il PD dovesse andare male, cioè dovesse arrivare terzo, e per Renzi si apre il problema anche della leadership, non verrà messo in discussione subito, perché però, non è che si fa subito, cioè. Però dopo, quindi Renzi e quindi in queste difficoltà in arrivo ci sta tutta che lui si arrocchi e faccia la conta, cioè, dei fedelissimi anche in quelli che non sono riusciti, anche perché ricordati che il Rosatellum che lui porterà a casa, a meno che non faccia diciamo qualche sgambetto strano a Berlusconi, ma insomma voglio immaginare che almeno questo se lo risparmi e ce lo risparmi. Con Rosatellum le candidature le fa lui. E fa lui. No, ma questo è chiarissimo che quello è l'obiettivo. Sta dicendo, certo, ragazzi, pensateci bene, perché poi alla fine sono esatto. io che decido. Lui decide. Quindi anche dopo il voto in Sicilia ci sarà un po' di cautela nella resa dei conti. Però lui ci arriva alle elezioni in una maniera rocambolesca, diciamo. Ci arriva attraverso due difficoltà, una più grave dell'altra, proprio la Sicilia. Sì. Ma questo è il primo aspetto. Ma il punto è che io non me lo sarei aspettato. Io mi sarei aspettato, devo dire la verità, una non reazione alla intervista di stamattina. Invece Palazzo Chigi reagisce. Perché probabilmente Mattarella, su questo non possiamo, almeno io non ho fonti su questo. Se dovessi scrivere stasera mi metterei ai telefoni, ma non l'ho ancora fatto. Però è ovvio che al Quirinale non deve far piacere che la versione che gli è venuta da Gentiloni non sapevo niente, c'è Renzi che dice no, guarda, tu eri d'accordo, perché non diciamo... allora al Quirinale dice no, scusate, chiarite. E Palazzo Chigi mette una nota. Ah, ma la nota è un capolavoro. Allora, ce l'ho davanti. Per i nostri ascoltatori è bene che la si legga interamente, sono poche battute. Fonti di Palazzo Chigi smentiscono le ricostruzioni di vario segno apparse oggi sui quotidiani in merito alla vicenda Banca Italia. Le stesse fonti sottolineano che sul tema della Banca d'Italia le decisioni del Presidente del Consiglio saranno basate sulle prerogative a lui attribuite dalla legge e ispirate esclusivamente al criterio di salvaguardia di autonomia dell'istituto. Allora, qua c'è una cosa principale. C'è un pezzettino della frase che dice tutto. Fonti di Palazzo Chigi smentiscono le ricostruzioni di vario segno. Di vario segno. È micidiale. Questo vario segno significa, in primis, ho compresa Renzi, che stamattina certo. abbiamo letto, perché sennò non avremmo fatto certo. la nota. È questa la finesse di questa nota qua. Naturalmente è un dettaglio che i lettori non possono vedere, un lettore non allenato. Questa non è rivolta al grande pubblico, questo è un messaggio a Renzi, sì, questo e ad altri, e ad altri, e ai suoi. È un messaggio di Palazzo Chigi a Renzi. Quindi qua sono le istituzioni che si stanno parlando, con un messaggio ufficiale che andava fatto per far vedere che l'hanno fatto, ma in realtà è un circuito chiuso. Quel vario segno, come tu dicevi, è esattamente questo, comprende Renzi. L'altra cosa forte, quindi stai attento perché tu hai detto questa cosa e puoi creare, stai creando un problema istituzionale, e poi però attenzione perché anche noi non siamo nati ieri. L'altro aspetto è che dicono decideremo in autonomia esclusivamente con il criterio della salvaguardia dell'istituto, e qui questo è un messaggio a Mattarella. Il quale giustamente cosa dice? Noi dobbiamo tutelare l'autonomia di Banca d'Italia. Non esiste che il Parlamento, che ricordiamo a chi ci ascolta, non è competente, il Parlamento non ha nessuna competenza sulla nomina del governatore. Non esiste che il Parlamento faccia un'emozione. Questa è una maniera maldestra di scassare le relazioni corrette, fair, tra le istituzioni. Quindi il comunicato di Palazzo Chigi di stamattina, Oscar, è micidiale perché è fatto come un rasoio, da qualsiasi parte lo giri, taglia. E naturalmente questo lascia un punto interrogativo, se non che, e anche lì rimango stupito, Berlusconi decide di dire a propria volta due frasi che insomma fanno capire che tiene un ponte, per così dire, perché le due frasi che pronuncia sono due frasi che mica disconoscono frontalmente l'iniziativa e il giudizio di Renzi, no? Oscar, il comunicato di Berlusconi è un capolavoro, parliamoci chiaro. Cioè, è inutile che stiamo qua a discutere. Allora, Berlusconi può piacere o meno, tu puoi essere contrario, favorevole, ha rovinato l'Italia, oppure il salvatore dell'Italia, mettiamoci tutto, bunga bunga, tutto quello che volete. Però il comunicato, non il comunicato, lui ha parlato dal prevertice del PPE a Bruxelles. E ha fatto una cosa che è la pancia degli italiani, perché scusa, ma tutti gli italiani pensano, ma cosa c'è sotto questa storia, alla fine della fiera? E tutti pensano, ah, vabbè, ci sarà la poltrona. Berlusconi, oggi alle 13.09, anche se la Banca d'Italia non ha svolto quel controllo che ci si attendeva, e se non sono del tutto senza senso, è bravissimo, senti, senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato, quindi si para da quella parte, si para da Renzi, lui dice, si può vedere la volontà della sinistra di occupare tutte le poltrone di potere, punto, boom. Sì, fantastico, perché dice, ma io Renzi lo capisco, ma tanto poi alla fine sempre loro se lo pigliano, ecco, questo per dire. Oscar, capito, cioè, è meraviglioso, perché lui per la seconda volta nel giro di poche settimane ha fatto un'operazione in cui ha scaricato, quelli sono dei dilettanti evidentemente, sulle spalle del PD tutto il peso di cose che magari non sono tutte del PD, questa è tutta del PD, ma la legge elettorale no. Però tu hai visto sul Rosatellum una polemica contro Berlusconi che metteva la fiducia? No, eccetera. Perché sono tutte accollate a Renzi. Tutte accollate a Renzi. Stavolta Renzi si prende addirittura la dichiarazione ufficiale di Berlusconi che dice: vabbè, ma quelli vogliono occupare il poltrono. Cosa tra l'altro vera, intendiamo. No, perché. Ma attenzione. La vera operazione di equilibrio in quelle parole di Berlusconi è quello quando lui dice non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato. Sì. Perché stando attento al sentiment popolare, perché il cavaliere fiuta, perché poi le migliaia e migliaia di italiani che ci hanno rimesso i soldi ci sono e come. Ma certo, e Berlusconi è una vecchia volpe della politica che nessuno è riuscito a mettere in pellicceria e ci hanno provato alla grande, devo dire. E lui dice no, noi vogliamo anche verificare, vogliamo mettere e i puntini sulle i, vogliamo vedere cosa ha fatto la vigilanza, ma attenzione, nel rispetto dell'istituzione. Questo è il punto in cui Berlusconi li frega tutti. Mm-hmm. Ma perché oggettivamente, Oscar, c'è l'esperienza qui. Cioè questa cosa qua in politica che è stata vilipesa, cioè il fattore di essere esperti nelle manovre istituzionali e quindi nei rapporti, nel tatto, eccetera, Berlusconi ce l'ha. Insomma, il paradosso è su come funzionano non ce l'aveva prima. I rapporti tra istituzioni e le nomine di importanti cariche che sono presidiate da rafforzate autonomie di indipendenza, come quella di una delle banche del sistema europeo e delle banche centrali. Beh, Berlusconi c'è passato, non è l'apprendista del 94. No, quindi, certo, è chiaro, non è l'apprendista. Ma scusa, tu ti ricorderai, noi lo raccontammo tutto, che ne so, il caso Fazio di Banca Italia, tanto per dirne uno, quella fu un'epica battaglia, bella, brutta, insomma c'era di tutto dentro. Però questa è di segno notevolmente diverso, perché qua c'è un atto ufficiale in Parlamento con una mozione di sfiducia, cioè qua c'è uno scassinamento del rapporto istituzionale. Sì. È una cosa che non va bene. Certo, è difficile prevedere, non sta a noi perché io non ho la palla di vetro, ma questi tre elementi di oggi sono molto pesanti e quindi riaprono la questione, perché oggi i giornali sembrava quasi tutti, si va alla conferma. Si va nel supposto. Cari colleghi, di quale conferma parliamo? Ma di quale conferma parliamo? Ci sono tre fatti, secondo me, enormi dal punto di vista proprio della dialettica politica e del peso istituzionale. Che ripeto, io sono stupito, ma poi c'è bisogno di un chiarimento in Parlamento. Per capirci, al di là, la questione di merito è importantissima, la questione bancaria è importantissima, la banca d'Italia è importante, ma la prima delle tre, cioè il siluro a questo punto deliberatamente ripiazzato sotto la linea di galleggiamento del governo PD da parte del segretario del PD, quello è un fatto politico, cari amici in ascolto, che deve farci tutti riflettere. Cioè significa, per esempio, per dirne una, la legge di bilancio, tutti i giornali a scrivere manovrina leggera di qua di là, quando va in Senato, mentre tutti hanno scritto sarà solo l'MDP a fare casini, guardate che il PD secondo me ci riserva delle Renzi riserva delle sorprese al governo Gentiloni Padova. Io questo, almeno anche l'atto dell'intervista di oggi, mi fa immaginare di non doverlo escludere. Quindi è un quadro, diciamo, molto complicato, al cui confronto quello della Spagna e della Catalogna, con questo scambio di lettere che ha a che vedere con l'epos letterario, secondo me, è, diciamo, di tutt'altro segno, perché lì sappiamo già, da quello che abbiamo capito dello scambio di lettere, mi pare, Mario, che sabato c'è il Consiglio dei Ministri a Madrid. Sì. Però sì. Lo stile di questa cosa fa una certa differenza rispetto a questi che si parlano con le interviste, i comunicatini. Si scrivono e si dicono cose di una certa pesantezza a propria volta. Allora lì la questione dello stile l'ha tirata fuori su List qualche giorno fa Maite Carpio, la mia socia, che ha fatto notare come gli spagnoli tengano molto al cerimoniale, no? La forma per loro è sostanza. E devo dire che questa, io non ci avevo fatto tanto caso, questa cosa, lei ha una sensibilità maggiore su la Spagna, è madrilena. E devo dire che è stata una cosa micidiale, perché poi sono andato a rivedere tutti gli atti formali, e questa cosa della forma che è sostanza dimostra quello che dicevi tu adesso, cioè la distanza enorme che c'è comunque tra le nostre istituzioni, che vanno così alla garibaldina, appunto presentiamo le mozioni in Parlamento su Banca Italia, dove tutto finisce per sembrare personale, invece dove tutto sembra personale, perché se non si rispettano le forme diventa tutto personale. Invece lì, nella durezza senza precedente della storia spagnola, le forme diventano la cosa però a cui non si può e non si deve rinunciare, non si può derogare. No, è bellissimo, perché non è che fanno un tweet. Perché qua ormai la politica è diventata tutto un tweet. Bravo. Fanno le lettere e se le suonano di santa ragione nelle lettere, ma sempre illustrissimo signor Presidente, caro capo del governo catalano, allora io ti dico che facciamo adesso la secessione. Come la secessione? Tu non fai niente perché non me l'hai dichiarata. Cioè, ma è bellissimo ed epico. C'è l'epos, come dici vedere questa cosa ti dimostra che la democrazia spagnola, pur in difficoltà, ma non perché non è democratica, queste sono tutte Toniazzi avrebbe detto, sono tutte delle supercazzo. La realtà è che la Spagna ha un problema di forma di Stato, cioè probabilmente dovrebbe passare da una monarchia anacronistica per un popolo come quello di Spagna, poi figurati, a una repubblica. Per farlo hanno bisogno di fare la riforma costituzionale. Non si può fare una riforma costituzionale se i catalani se ne escono, cosa abbastanza improbabile tra l'altro. Cosa fanno? Se ne escono in metà di Barcellona, perché li abbiamo visti in piazza, gli unionisti a Barcellona, non solo i separatisti. Che facciamo? La dividiamo in due col muro di Berlino, fa abbastanza ridere. È chiaro che è un'opzione. Tu sai che è nata proprio ieri un'iniziativa politica che mira, in caso di secessione, appunto a lavorare anche per la secessione di Barcellona dalla Catalogna. Certo. Secessione. Stiamo parlando per ormai di. Però dico, io sono stato molto critico rispetto a come Rajoy ha trattato questa cosa fin dall'inizio, anche un calcolo io, cinico, sì, eccetera, eccetera. Anche Maite su, detto su tutto lì, questo, sì. E questa settimana ci hanno dimostrato che l'area indipendentista, radicalizzata a seguito della Corte Costituzionale Spagnola, che smonta lo statuto, e poi di Rajoy che dice no su tutto, però i radicali indipendentisti nell'arrivare a questa scommessa senza aver spiegato innanzitutto hanno ai propri fatto. Che cosa diavolo significava uscire dall'Unione Europea e dall'Euro, perché questo significa non avere intavolato trattative su una transizione, su questo li ha messi in un angolo. Giusto per gli ascoltatori di Radio 24, queste cose le sanno, ma è bene ripeterle. Nei due giorni, subito dopo il referendum, le due principali banche spagnole hanno bruciato 3 miliardi di capitalizzazione in borsa. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Non sono soldi delle banche, sono soldi dei risparmiatori. Detto questo, Mario, io siccome la lettera di Puigdemont dice guarda che io non do proclamata la secessione, quindi tu il 155 non puoi farlo. Se lo farai, a quel punto l'assemblea parlamentare catalana è libera di proclamare. Ma questi il sabato, io mi auguro solo che nelle misure che verranno assunte da Rajoy e dal Consiglio dei Ministri sabato, poi devono passare al voto in Senato, ma passano nel voto in Senato, e ci sia un esercizio di ragionevolezza. Speriamo, lo speriamo tutti, perché noi speriamo che trattino, esatto. non che perché è meglio per tutti, cioè l'Europa degli stati deve farsi un ragionamento sull'Europa delle regioni, non significa per forza secessione, ma significa che le competenze che vanno verso l'alto inevitabilmente nella globalizzazione hanno bisogno di essere bilanciato anche da una devoluzione verso il basso. Guarda, hai detto una cosa giusta, che non si discute nel dibattito pubblico, perché vabbè, lasciamo stare. Ma l'altro ieri il direttore di uno dei principali istituti di geopolitica europei mi ha passato via email, è un lettore di List, un francese, mi ha passato uno studio interessantissimo che diceva ma vabbè, e se una regione secede da uno Stato all'interno dell'Europa cosa succede? È un caso non contemplato, capisci? Non contemplato. In realtà ce l'abbiamo davanti. Esatto, quindi è una riflessione profonda che non finisce sabato, ma comincia sabato, di cui sono anche un pezzo meno significativo, non si parla di secessione, certo. I due referendum che ci sono il 22 qua in Italia. Comunque, io ti ringrazio Mario per la lucidità, come sempre, iscrivetevi a List, questo è il mio motto perché ci credo davvero, io non sono un avido lettore, ma siamo già in tanti e quindi siamo anche disponibili, Mario, a contribuire poi all'evoluzione societaria, perché c'è bisogno di novità di questo tipo, perché i giornalisti non pensano di essere altrimenti solo scrittori per tombe e sepolcri imbiancati, perché ci sono le tombe, cioè quelli che non ci leggono più a pagamento, ma ci sono invece tanti i sepolcri imbiancati che pretendono in questo di farci dire quello che vogliono loro. Ci siamo capiti, Mario, e intanto un abbraccio, e noi adesso andiamo alla borsa e a un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta e sentiamo un po' qualche telefonata su questo tema. Banca d'Italia, Renzi, Gentiloni, Mattarella, Berlusconi, di cui vi abbiamo dato conto dei 3 sviluppi molto importanti di da stamattina a quest'oggi. Allora cominciamo con Lorenzo che ci chiama da Roma. Prego Lorenzo. Buongiorno, anzi buonasera da Tolonario. Sì. Ma io rimango sempre attonito, perché rimango sbalordito. Qui si discute, scusate il termine, su percentuali delle 0,1,02 e quant'altro, quando di fronte a un fatto acclarato, gravissimo, in cui la Banca d'Italia non ha assolutamente ottemperato insieme alla Consob al suo mandato di sorveglianza, e ci stanno prendendo per i fondelli, sto parlando da manager di cui non, francamente parlando direttamente non mi interessa, ma il fatto che una istituzione tecnicamente intangibile, e dovrebbe essere così, al di sopra delle parti, se n'è fottuta largamente del mandato di sorveglianza verso le banche, e che nessuno esprima con disprezzo questa mancanza di dovere nei confronti delle istituzioni, è francamente vergognoso. Questa è la prima. Lasciamo perdere i giochi di Fioretto, forse ha detto Visco, forse l'ha detto Gentiloni, forse l'ha detto Renzi. Questo soggetto, e dico Visco o chiunque per esso, da 5 anni non si accorge che stanno facendo i buchi. Detto questo, è possibile mai che non c'è nessuno che dica finalmente che le banche d'affari devono essere divise dalle banche operative sul territorio? Facciamo una riflessione abbastanza seria sull'argomento. Un partito che lo dica, uno che non sia stipendiato dagli istituti di credito o un giornale che non abbia i fidi revocati in 5 minuti se si comportano così. Facciamo una risata, glielo dica. Giannino, no, ma io la mia era una, risata amara. No, io sono a partita IVA, non sono dipendente, quindi si figuri. Io, ma lei è perfettamente d'accordo con me. Ecco, si figuri. Cioè, a discutere il punto 01 di bilancio, ma di che stiamo a parlare? Per esempio, a sostenere la separazione tra banche commerciali e banche d'affari è Paul Volcker, cioè il più grande banchiere centrale americano, altro che Alan Greenspan del secondo dopoguerra. Quindi, per dire, cari ascoltatori, che quello che diceva il nostro ascoltatore ha un signor fondamento, cioè non è una trovata detta così, tanto per intervenire in diretta. Io, chi mi ascolta sa che sono molto critico da anni su come la Consob di Vegas, diciamo nomi e cognomi, e la Banca d'Italia di questi anni hanno esercitato il loro mandato. Certo, volevo un dibattito serio e non ridotto a una contesa elettorale tra un partito, un governo di quel partito, il capo dello Stato, eccetera. Temo che non l'avremo, perché la commissione anche d'indagine parlamentare all'ultimo secondo serve solo a fare cassa di risonanza elettorale, non avrà il tempo per fare nulla, questa è la verità. E non mi interessa molto sapere se Renzi è partito all'attacco perché teme che poi nelle carte consegnate ieri dalla Banca d'Italia a sua Etruria ce ne siano anche per il PD, la Boschi. Non è questo il punto. Il punto è che a fronte di italiani a cui è stato raccontato per anni che tutto andava meglio del mondo, le nostre banche erano così, e poi ci sono 64 miliardi di euro di valori bruciati e miliardi che lo Stato deve mettere nelle banche, e veramente migliaia e migliaia di italiani che ci hanno creduto che tutto andava bene si sono tenute la più alta percentuale di subordinate bancarie nel portafoglio che le autorità di vigilanza hanno continuato a fare vendere, dicendo alle banche sì, rischieranno col bail-in, ma tanto chi le toccherà mai? Perché questo è un canale di raccolta per voi banchieri più economico che se li date agli investitori istituzionali che sanno meglio apprezzare il rischio e quindi dovrebbero diventare più onerose. Questa è la lunga storia che io, insieme ad altri colleghi, hanno tentato di raccontare, ogni volta sentendosi dire che eravamo gufi, nemici della stabilità del sistema. Caro ascoltatore, vedremo come va. Però siamo minoranza, che mi sentono dire questo, perché c'è una grandissima collusione di interessi, per cui molti in Italia pensano, che esercitano il potere, pensano che la Banca d'Italia serve a preservare la stabilità, più che la trasparenza e la capitalizzazione delle banche. Se poi le cose vanno male ci pensa il contribuente con lo Stato. Ecco, questo è un nucleo duro di convinzioni in cui stanno dentro chi sono i soci delle banche che non vogliono ricapitalizzare, chi ha preso tanto credito a condizioni senza garanzia perché è amico degli amici. Queste cose qua ci sono e io spero che gli italiani abbiano capito che ci sono rispetto a questo tumulto che è in corso. Allora, adesso noi abbiamo le strade e poi una testimonianza di una nostra ascoltatrice, cambiamo argomento, una ascoltatrice che è diventata insegnante a tempo indeterminato con la riforma della buona scuola, quella voluta da Renzi, e che però è il caso di ascoltare per capire come anche ciò che sembra buono e resta buono, un contratto a tempo indeterminato con i tempi che corrono è sempre buono, ma in realtà dietro la facciata non è così buono poi come sembra. A tra poco, intanto strade. La versione di Oscar. Ed eccoci qua per questa testimonianza finale che dobbiamo a tanti colleghi e colleghe di questa lettrice. Per la verità è stato il marito a scrivermi e a raccontarmi la storia e ho detto: ma è disponibile tua moglie a raccontarcela? Io per una volta, e però mi sembra il minimo, tutelo il nome e cognome della docente, perché come sentirete è una testimonianza che tra da una parte ringrazia, ripeto, ha avuto il contratto a tempo indeterminato anche lei, ma adesso ce lo racconta, naturalmente ha il classico iter di anni e anni e anni precedenti prima di arrivare a questa speranza realizzata con la legge 107, la buona scuola. Però poi, concretamente, l'esperienza che vive è un'esperienza di quelle che non esattamente esalta la professionalità e l'attesa di tanti anni, ma a dire la verità la deprime. Grazie di essere resa disponibile. Grazie a lei, buonasera, grazie. Le viene da sorridere perché è tutto l'anonimato. Diretta a me, è meglio se la tutelo, è meglio se la tutelo. Perché, sì, sono d'accordo, ecco, grazie. Perché evitiamo di creare guai. Allora, lei è docente in, mi stava venendo a dire, in che classe di concorso? Dunque, io sono la classe di concorso filosofia e storia. Adesso le classi di concorso, per chi non lo sa, hanno cambiato nome. Semplicemente sono cambi di nome, prima era la A037, adesso si chiama A019, nulla cambia. Esatto. E si è fatta, io si è fatta insieme a tre meravigliosi bimbi, ma i suoi begli anni di precariato. Sì, io ho sempre insegnato, da sempre, prima il mio percorso, come quello di tanti, è stato quello prima nella scuola paritaria, ma insomma parecchi anni, e poi è arrivata la tanto agognata assunzione nello Stato con la famosa legge 107 del 2015. Ed io ero felicissima, chiaramente, perché insomma non mi improvvisavo. No, perché si è fatto l'anno di precariato, si è fatto l'anno di prova, si è fatto l'assegnazione provvisoria. Cioè, chi non conosce l'ordinamento scolastico italiano non sa l'inventiva tassonomica per con cui la politica è passata oscenamente a essere quella del paese avanzato al mondo con la maggior percentuale, centinaia di migliaia di precari a cui si faceva la promessa e lì si gestiva così. Tanto che per una volta la tanto famigerata Europa è stata quella che ci ha costretto a dover regolarizzare la situazione, regolarizzazione che malgrado le tre leve esercitate da allora per circa 160.000 è ben lungi dall'aver esaurito con le graduatorie, ma insomma è arrivata per lei, il contratto è arrivato. Esatto. E a quel punto però lei viene inserita in una cosa, anche qui spieghiamola ai non addetti ai lavori, che si chiama l'organico di potenziamento. Allora, che cos'è? L'iter è stato già particolare in questi tre anni. Le spiego che cos'è l'organico di potenziamento, poi non addette ai lavori. In realtà l'idea è buona, io l'ho sempre sostenuta e ci credevo, nel senso che chi sarebbero i docenti potenziatori? Sarebbero coloro che dovrebbero, a discrezione del dirigente, perché comunque è il dirigente scolastico che decide i ruoli, che assegna le ore. È il responsabile anche del piano di offerta aggiuntiva, come si chiama in termini tecnici. Adesso si chiama PTOF, è il piano triennale dell'offerta formativa. Sì. Parliamo nello specifico della scuola secondaria di secondo grado, quindi la scuola superiore. E l'organico di potenziamento, se fosse utilizzato come in alcuni casi, benché rare, insomma, se venisse utilizzato a buon fine, dovrebbe andare ad ampliare, a migliorare, a innovare l'offerta formativa che ciascuna scuola offre chiaramente alla propria competenza. E invece le cose poi vanno in maniera leggermente diversa, nel senso che pur nella consapevolezza che la mia classe di concorso sia una classe in esubero, quindi con tantissime persone, le classi di concorso come la mia, ma ce ne sono anche altre particolari, un altro caso particolare, la classe di concorso di diritto, le classi di concorso vengono un po' mandate a caso nelle scuole, quindi senza che ci sia, il punto è questo, senza che ci sia una reale richiesta da parte delle scuole stesse sull'organico di potenziamento. Cioè, in parole povere, lei che è un insegnante di storia e filosofia è finito in un istituto professionale dove non assolutamente c'è. Assolutamente, certo. E cosa fa? Io sono un istituto alberghiero, avrei bisogno di potenziare, non lo so, turismo, accoglienza, e arriva ma lei è storia e filosofia, e quindi lei cosa fa? E quindi fondamentalmente faccio il tappabuchi. Ma questo non capita solo a me, questo capita a tantissimi altri docenti in tutta Italia, perché poi io cerco di rimanere sempre sul pezzo, anche in contatto, quindi insomma niente, in sostanza, come viene, tra i vari utilizzi di questo organico del potenziamento, ma è tra i vari utilizzi. Ma io, scusi, anche la domanda che le faccio, perché io sono un critico dello Stato e ho scritto un mucchio di volte di questa oscenità del precariato di massa, la cui risoluzione in poco tempo crea questo problemi come questo. Non parliamo più di precariato. No. Tutti docenti. Ho capito, ma per chi come lei ha passato anni e anni della propria vita a coltivare la propria materia, ad aspettare l'abilitazione, poi le prove, l'anno di approvazione, eccetera, eccetera, e poi dice, beh, io finalmente ti do il contratto a tempo indeterminato. Sorpresa! Mica insegna, però. Certo, ti assegno laddove non ho bisogno di te, sostanzialmente. Oh, dove non ho bisogno di te, cioè... Sì, che... è quello che mi è stato detto sin dal primo giorno, che in sostanza io dovevo ringraziare, ma io ringrazio... Per carità, perché ha avuto il contratto a tempo indeterminato, però esatto, io non so che effetto esatto possa avere questo sulla sua motivazione. Ecco, sulla... beh, diciamo, c'è chi la prende un po' meglio, c'è chi la prende un po' peggio come me... E perché c'è chi ci crede nell'insegnamento, no? Beh, ci ha passato un pezzo fondamentale della sua vita. Io quello che dico sempre, che sostengo sempre da un sacco di anni, è che quello che io salvo dalla scuola sono i ragazzi, di qualunque istituzione facciano parte. Guardi, io la ringrazio perché, lei, no, come ha detto lei, non riguarda solo lei, riguarda migliaia di persone questa cosa. Cari ascoltatori, pensateci, va bene dover dire loro come fa il sindacato, ringraziatevi, abbiamo, e per voi che abbiamo battuti e siete assunti a tempo indeterminato, per poi però dire, beh ragazzi, alla peggio le ore le passate a leggere il giornale nella scuola, ma come si fa? Ma come si fa a prendere così a calci, dopo averli presi a calci per anni e anni di precariato, dicendo no, io ti assumo, però mica pretenderai che ti mando dove davvero servi? Ma vi rendete conto che spreco di capitale umano pazzesco che significa questa roba? Va bene, tanto grazie e auguri e un abbraccio da parte mia alla nostra testimone di ingiustizia, se posso dire, e appuntamento domani mattina, come sempre all'8:15, 24 mattino, me e Luca Telese, domani pomeriggio alle 16, la versione di Oscar.